ma d'altra parte nei primi anni del festival spesso abbiamo avuto relazioni con scienziati o matematici. Poi pian piano, probabilmente l'incontro anche con un filosofo olivese, Rocco Ronchi, già nel 2001, una edizione dedicata al rapporto con la realtà, nello specifico fu l'incontro con Wittgenstein attraverso Rocco Ronchi, a non avvicinarci alla filosofia, quantomeno a sentire la necessità di potersi confrontare con persone che ragionano sulle cose del mondo in un certo modo. Quindi sia, comunque già era capitato, con i matematici, ricordo Giuseppe Longo, ai quali si chiedeva di mostrarsi ad un pubblico che lo ascoltava nell'indicare propriamente la propria strada di ricerca, quindi abbandonare il fatto che se fossi in un luogo deputato, tra virgolette, diciamo così, al teatro. La stessa cosa per i filosofi vengono chiamati per esercitare, non dico il loro sapere, però esercitare anche la loro curiosità di incontro e mettere in campo quello che è la loro scienza. Ecco. La filosofia è sicuramente negli ultimi anni presente sempre più spesso e questo rimane un elemento che forse caratterizza il festival, ma per me rientra tra quelle attitudini, diciamo, naturali di certi uomini a circondarsi di fatti che possono aiutare alla comprensione del mondo. Ok, grazie. E proseguiamo con l'ultimo tema, che è appunto l'ultimo lavoro, Marmo. Come presentalo? Io lo introdurrò come evento di inaugurazione del festival e come puoi parlare sì, dovrei accennare anche rapidissimamente perché saranno ospiti delle compagnie veramente notevoli, importanti del teatro e della danza europee, quindi varrebbe la pena. Allora inseriamo anche questo tema qui, quindi come lo chiamiamo, le compagnie internazionali ospiti al festival? Poi vado. Può essere, sì. Va bene, quando vuoi. Sì, Crisalide ha sempre cercato nell'esperienza dell'altro il substrato per vivere, ecco. E questa anima viene cercata in sensibilità che a volte non si riescono a individuare localmente. Da questo sentimento, da questa necessità di trovare altre strade, altre vie, vie di fuga che non sono consuete, Crisalide spesso si rivolge proprio in questa ricerca ad artisti stranieri o che sono stati visti in festival italiani, ospiti, o altrimenti direttamente nei loro luoghi di produzione o anche casualmente in trasferte, come capitò con Ivo Dincer nel 2007 a Festival Infant di Novi Sad, e incontrammo questo straordinario interprete, un'eccezionale figura che mescola la sua follia con un desiderio di aggredire che cosa? Aggredire quello che è l'inconsistenza probabilmente della nostra vita, aggredire quelle che sono le regole costanti che ci tengono spesso ingabbiati. Questo Ivo Dincer sarà al festival domenica 30 con questo lavoro I Cure, che in qualche modo dice la parola, il teatro dovrebbe essere un affare curativo, cioè nel senso che potersi curare da certe questioni, quindi alienare veramente certi fatti dolorosi che ci tormentano. Quindi Ivo Dinchev con Haikur il 30 domenica. Tra il 30 è al centro, tra il sabato e il lunedì, diciamo il 29 e il 31. Il 29 e il 31 abbiamo il 29 una compagnia francese, Miriam Gursink, che porta un lavoro Almasti, e il 31 lunedì è la compagnia catalana spagnola, quindi la Veronal con Portland. I due lavori sono diametralmente opposti. Da una parte la Veronal porta in sé la tradizione spagnola, e che sulla quale vengono innestate tutta una serie di tensioni del presente, non parlo neanche di contemporaneo, che bisogna cominciare ad abbandonare questa parola. Dall'altro abbiamo una Miriam Gursink con la sua interprete, perché Miriam questa volta è coreografa e Deborah Leary è l'interprete del suo solo, dove l'interprete mette in campo tutta la sapienza coreografica di Miriam in questa ricerca estrema di un movimento millimetrico. Se si pensa che Deborah Leary lavorerà su tre tappetini da danza, quindi in una sorta di piccolissima area dell'intero palcoscenico, alle spalle di Deborah Leary sarà presente Casper Perplis, che è un musicista elettronico di fama europea e mondiale, eccezionale, che già da diversi anni accompagna la compagnia come datore suoni, cominciamo sì, come ingegnere del suono anche. Quindi non è che abbiamo esaurito, cioè diciamo che rimarrebbe l'inizio e il termine del festival. Il termine è con Anna Maria Imone, una giovane danzatrice coreografa italiana, che presenterà Trigger in uno spazio non teatrale che ha nome La Fabbrica delle Candele, mentre l'inizio del festival, quindi l'apertura, è sostenuta dall'ultimo lavoro di Maspeato, della compagnia che organizza il festival stesso. Quest'anno abbiamo ritenuto di dover affrontare diciamo sì, questa responsabilità, nel senso di mostrare, e non sempre è così, l'impegno del festival è oltremodo forte, e portare anche un proprio lavoro, insomma, aggravia questo peso. Siamo diciamo pronti a questa sfida. Il lavoro che presenteremo è Marmo su una civiltà esausta, e forse due parole legato al lavoro di Maurice Blanchot, La scrittura del disastro, con un innesto molto potente che proviene da Emile Cioran con La tentazione di esistere. Sono i nostri ultimi lavori, caratterizzati da strutture, scene che si intersecano, che si muovono, che spostano gli attori, che sono quasi mai, diciamo, sono essenzialmente figure che nella loro complessità danno, speriamo, una sensazione fondamentale, che è quella che per me deve attraversare il teatro e dargli un senso. Grazie Lorenzo. Grazie a te.